24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Bentornati su Mix 24 Estate. Stiamo raccontando gli anni 60 tra musica e storia con Franco Schipani e Marina Milone. Oggi ci occupiamo del 1964. Allora Franco, come iniziamo quest'anno? È sconosciuto, con la faccia da bravo ragazzo della porta accanto in mingherlino, ma una voce incredibile. Gianni Morandi. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Ciao Marina, buongiorno. Una voce straordinaria che non ha assolutamente cambiato. Guarda, io devo dire una cosa, che ho visto Gianni Morandi, ho avuto questa fortuna, l'ho visto dal vivo a New York alla fine degli anni 90, in un teatro da 1500 posti, è stato lì una settimana, 10.000 spettatori, cioè una cosa pazzesca. Ecco, lui è arrivato solamente con la chitarra, pensa che faccia tosta, è soltanto con la chitarra, soltanto con la voce, camminando in mezzo al pubblico, ha fatto uno show della Madonna. Però questo negli anni 90, invece nel 1964 era uno sconosciuto. Guarda, era talmente andato bene nel 1963 con Fatti mandare dalla mamma che quest'anno ci si aspettava da lui soltanto una riconferma. Guarda, se è possibile è andato ancora più forte. Vabbè, però ti faccio una domanda di quelle difficili. Che tipo di popolarità era quella di Gianni Morandi? Guarda, era una popolarità contagiosa. Ricordati che in quel periodo, specialmente nel 1964, tu non potevi uscire da casa se non avevi gli stivaletti alla Beatles, sai, quelle con la ciniera lampo di lato, tanto per intenderci, e il cappelletto alla Gianni Morandi. Era meglio che stavi a casa, guarda. Ma lo porta ancora il berretto, quello del 64 adesso? Guarda, ne ha venduti talmente tanti che non so se gli è rimasto un cappello da mettersi. Comunque, era un bravissimo ragazzo, non era certo trasgressivo, anzi forse più trasgressivo oggi, non sai che cosa è capace di fare sui social. È vero. No, comunque lui, guarda, non era assolutamente trasgressivo all'epoca, tant'è vero che il segreto del suo successo, quando parlavamo appunto del suo pubblico, era il fatto che dentro casa sia la figlia e sia la mamma compravano lo stesso disco, quindi si andava d'accordo. E lo so bene, mia mamma li comprava. E quindi che mi devi far ascoltare? Era sempre un ospite ben accetto, specialmente con queste canzoni. Non son degno di te, non ti merito più, ma al mondo non esiste nessuno che non ha sbagliato una volta. E va bene così, me ne vado da te. Degno di te, un altro successo del 1964 di Gianni Morandi. Eh sì, però quell'anno è finito il boom economico, proprio la recessione e arrivano le misure, quelle dure, toste. Aumento delle tasse sulla macchina, sulle barche, viene sospesa la scala mobile. I salari medi salgono del 10% e addirittura Antonio Giolitti, ministro socialista, chiede agli operai di non fare più richieste e lo appoggia il governatore della Banca d'Italia Guido Carli, che impone delle misure di austerità. Parola austerità, magica. Madonna, ancora oggi l'austerità, basta con questa austerità. Siamo arrivati, facciamo ai nostri anni, siamo arrivati al 2015. Questa parola è famosissima. E quindi questi anni 60 iniziano a essere molto vicini ai nostri. Però mi dicevi di Morandi, in quell'anno c'erano anche altri bravi ragazzi come lui? Sì, c'erano dei bravi ragazzi che come lui si stavano affermando, e lo troviamo questo proprio al secondo posto in classifica, proprio dietro Gianni Morandi. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose, dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono. Uno sguardo ed un sorriso m'han svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Allora Marina, io sono sicuro che questo l'hai riconosciuto, vero? Beh sì, Bobby Solo, una lacrima sul viso, l'ho riconosciuto. Anche lui copiava Elvis, o sbaglio? Ma Elvis quante lettere ha? 5 lettere. Bobby quante lettere ha? 5. Little Tony nella prima, come ha? 5. Tutti, guarda, anche nel nome, nella lunghezza volevano copiare Elvis. The King. Comunque ti racconto una storia di questa canzone, perché questa lacrima sul viso è nata in un modo molto particolare. Devi sapere che, la ricordi, la casa di Bobby Solo aveva uno spot libero per Sanremo, quindi lo chiamarono proprio all'ultimo secondo, in emergenza assoluta. E cosa hanno fatto? Hanno chiamato Mogol, che già era un paroliere, ha fermato e dissero: guarda, c'è una canzone bella con un artista nuovo, gli puoi dare una guardatina? Ecco, Mogol e Bobby Solo, Roberto Satti, salgono in questa Renault gialla mezza rotta e si avviano verso lo studio di registrazione. Mogol guidava perché sapeva la strada e dice: mi serve, mi fai sentire questa canzone, Roberto? E lui cominciò: quando dietro quella duna spunterà la prima luna. Cioè, guarda, così non funziona, prendi carta e penna. E scrissero una lacrima sul viso, gliel'ha detto in macchina, andando allo studio di registrazione. Finita la registrazione, la casa madre, la ricordi, chiamò da Milano e disse: finito il disco, dobbiamo andare a Sanremo, mi raccomando. Sì, è finito, bisogna stampare la copertina. Senti, allora, che nome artistico hai scelto? E Roberto Satti disse: guarda, io ho scelto Bobby. Sì, ma Bobby come? Dice: no, Bobby Solo. E hanno stampato Bobby Solo sul disco. Immagina se avesse detto: no, solamente Bobby. Oggi si sarebbe chiamato solamente Bobby. E invece Bobby Solo. Quindi una ventata di novità in questo 1964. Ragazzi che arrivano nel panorama musicale, ma tutto qui? Beh no, perché proprio nel 1964 le canzoni d'amore, quelle che parlavano di relazioni, di io chi amo, amo soltanto te, per favore non mi lasciare, cosa del genere, ecco, in quel momento hanno una nuova tendenza. Guarda, prima le ascoltiamo e poi ne parliamo. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda a me io mi innamoro così, guardando a te vorrei sapere una cosa da te, perché quando io ti guardo così si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? E dillo. Vabbè, un modugno in napoletano, straordinario. Sì, però cominciavamo anche a sentire dei testi che erano proprio diametralmente opposti. Guarda, ti faccio ascoltare qualcosa, ascolta bene le parole, eh? Sì. Ti ringrazio perché sei ancora mia e mi sai dare tante cose. insomma, Marina, Michele, Rita Pavone, Mina, con queste canzoni io ti amo, non posso vivere senza di te, per favore non mi lasciare, senza di te non posso vivere. Altri invece la pensavano proprio in un altro modo. Cicci, salute a te. Cicci, ti saprò. Quindi se devo lasciare qualcuno posso scegliere uno di questi pezzi. Guarda Marina, secondo me è inutile fargli ascoltare Fabrizio Ferretti, Les Surf oppure Rich Anthony. Oggi mandagli direttamente un tweet oppure qualcosa su WhatsApp che è più veloce. Dici, meglio essere più diretti. Assolutamente sì. Vabbè, ma chi ha vinto questa guerra di tendenze, diciamo così? Guarda, se fosse stata una partita di pallone a questo punto sarebbero in parità, però il golden goal lo ha segnato sicuramente Ezio De Gradi. Hai perfettamente ragione, guarda, ti faccio sentire una cosa, Marina. Eccolo, l'ennesimo furto autorizzato di Leslie Gore. Sì, non chiamiamolo furto, chiamiamolo prestito autorizzato, come quello che ci hanno dato gli Stati Uniti nel 1964, ben più di $1 miliardo. Adesso fa il Fondo Monetario Internazionale, che però ci dà 225 milioni. Aspetta, scusa un attimo, cioè, tutti questi soldi, che sono una marea di soldi nel 1964, cioè, ma che fine hanno fatto? Dovremmo ancora averli qui da qualche parte, no? Sì, la paura del comunismo fa questi effetti. Comunque, cosa più importante, il 4 ottobre del 64 finiscono i lavori dell'Autostrada del Sole, si inaugura ufficialmente a Firenze e adesso tra Napoli e Milano ci sono solo 8 ore di macchina. A Milano si inaugura la metropolitana e nello stesso momento l'Italia si collega alla Svizzera tramite il traforo del Gran San Bernardo, ben 6 chilometri di tunnel. Wow. Nella musica però stiamo uscendo dal tunnel del romanticismo in questo 1964? Dimmi di sì. No, assolutamente no, insomma vabbè, i romanticoni ci sono sempre in giro, non è che spariscono così da un momento all'altro. Tanto è vero che nel 1964 c'è proprio un momento d'oro della melodia italiana. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me. Thank you. riconosciuto anche io, perché la sera mi preparo, faccio i compitini su YouTube, mi informo per essere alla tua altezza. Oh, e poi è napoletano, quindi insomma dovresti conoscerlo, vai. Però l'altro me lo sono perso, chi è? Cioè, tu ti sei perso Fausto Papetti. Cioè, Fausto Papetti, uno che ha registrato 50 LP, cioè lui è il re delle cover. Lui ha fatto le cover pure, non lo so, alla musica degli ascensori, capito? Era veramente il numero uno nostro nel mondo in quel momento. Restando in Italia, però, cos'altro succede? Succede che dalla California arriva un venticello carico di surf. Stati Uniti, giusto? Chi sono? E questi sono i Beach Boys, californiani per eccellenza, dei ragazzi bianchi, che più bianchi non si può, che hanno sfruttato questo nuovo sport che era il surf e ci hanno messo, ecco, la musica sopra, hanno adoperato lo sport come veicolo promozionale. E in Italia invece si surfava? Si surfava, beh, giudica tu. Ballando il surf, sembra che suoni una tumba muovendo le mie mani davanti a te. Sfioro col dito la bocca, poi incrocio le mie braccia qui sul mio cuor. E mentre dimentico il mondo, un bacio io ti mando con tanto amor. Datemi un martello, che cosa ne vuoi fare? E lo voglio dare in testa a chi non mi va. Sì, sì, sì, a quella smorfia con gli occhi dipinti, che tutti quanti fan ballare, lasciandomi a guardare, terapia mi fa. Tremarella di Edoardo Vianello, e poi c'era Rita Pavone con Datemi un martello. Però questo Datemi un martello è copiata, ancora una copia, basta, Marina, non ce la faccio più, da una canzone del celebre trio americano Peter, Paul and Mary. If I had a hammer, I'd a hammer in the morning, I'd a hammer in the evening, all over this land. I'd a hammer at danger, I'd a hammer at a warning, I'd a hammer at love between my brothers and my sisters, all over this land. Mi piacciono, mi piacciono. Ti piacciono perché Peter, Paul e Mary in questo momento tu li senti allegri, loro sono veramente un trio, sì, storico in America. Un po' folk, però, no? Sì, però non è che, guarda, che sono sempre così allegrotti, perché loro hanno fatto anche dei pezzi fortissimi, cioè Blowing in the Wind di Bob, sì, Dylan, lo hanno portato prima al successo loro, pensa, di Bob Dylan. Vabbè. E ti ho detto tutto. Comunque loro, come folk, come personaggi folk, il loro idolo era ovviamente Pete Seeger, siccome, sì, recentemente scomparso, andiamo fuori dal seminato e facciamo sentire qualcosa di questo grandissimo maestro. May God bless and keep you always, may your wishes all come true, may you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous, stand upright and be strong, and may you stay forever young. May you stay forever. E con questa leggenda ritorniamo dopo la pubblicità. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. la zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Dal 31 agosto, solo su Radio 24. Questo non credo. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Ben trovati su Mix 24 Estate con il nostro viaggio storico e musicale negli anni 60. Con Franco Schipani siamo nel 1964. Sai quanti eravamo al mondo in quell'anno? Guarda, io c'ero, secondo me intorno a me c'era qualche miliardo di persone, mi sbaglio? Esatto, circa 3 miliardi di persone e la Cina è il paese più grande con 700 milioni di abitanti. Già allora, capito? Oggi siamo quasi il doppio. È l'anno in cui in Sudafrica Nelson Mandela, leader storico contro l'apartheid, viene condannato all'ergastolo. È anche l'anno in cui iniziano le proteste contro la guerra in Vietnam. Spostandoci in Medio Oriente, a Gerusalemme viene fondata l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Restiamo ancora fuori dall'Italia, ma Franco, cosa sta succedendo nella musica? Nel 1964 inizia l'era dei Beatles e nulla, dico nulla, sarà più come prima. Li ho dovuti mettere tutti questi 45 giri perché erano tutti in classifica nel 1964, Marina. E anche i Beatles twistano quell'anno, mi hai frastornata, non oso nemmeno immaginare il Festival di Sanremo. Non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te e non avrei, non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io Giuliano Cinguetti con Non ho l'età. Pensa che lei nel 1964 vince il nuovo festival di Castrocaro cantando una canzone bellissima di Gaber che si intitolava Le strade di notte. Poi partecipa a Sanremo. Questa è una ragazza che ha 16 anni. Non è che non ho l'età per amarti, non ho l'età neanche per guidare. Infatti a Sanremo viene accompagnata dal papà e dalla mamma. Comunque questa... E vince Sanremo. Vince Sanremo, ma non soltanto Sanremo. Vince anche l'Eurofestival e poi non so più quante altre manifestazioni internazionali proprio con questa canzone. Scusami, ma Gaber lo liquidiamo così? L'hai nominato? Ti voglio far sentire una cosa dove c'è lui e la Cinguetti che fanno una cosa... Senti. Sono molto contento che tu sia venuta nella mia trasmissione. Grazie. No, devo dirti molto che... Molto contento anche perché hai avuto in questo periodo dei grossissimi trionfi. I trionfi da Castrocaro a Copenaghen, a Sanremo, a Parigi. Però io so che tu sei rimasta una ragazza semplice che continui a studiare, vero? Studi? Sì, studio privatamente. Ecco, io veramente mi chiedo come faccia a studiare veramente. Adesso ti chiedo... In treno, in aereo. Ti chiedo un favore, cioè di cantare la canzone con la quale hai cominciato a Castrocaro, che tra l'altro era anche una mia canzone, quindi mi fa particolarmente piacere. Beh, è un favore anche per me. Ok, messaggio ricevuto, ma vediamo cos'altro succede da noi nel 1964. Muore Palmiro Togliatti e poco dopo viene eletto segretario del Partito Comunista Luigi Longo. Il 14 maggio a Corleone viene arrestato il capo di Cosa Nostra, Luciano Ligio, latitante da ben 16 anni. Dopo un breve mandato per malattia si dimette il presidente della Repubblica Antonio Segni e si racconta che queste dimissioni siano avvenute dopo un grave scontro con Aldo Moro. Questo è, non si sa, però è un pettegolezzo del 64, diciamo così. E viene eletto poco dopo Giuseppe Saragat, primo socialdemocratico. Non c'è in giro nessuno. Ho detto che in quell'anno l'economia inizia a scricchiolare, iniziano le proteste degli operai e intanto al governo c'è Moro con un programma di centrosinistra. Ecco, proprio in quell'anno nasce l'ipotesi del cosiddetto piano Solo, un tentativo di colpo di Stato che l'arma dei carabinieri avrebbe dovuto portare avanti in caso di grave crisi politica. Un tentativo di colpo di Stato. Voglio correre a casa, voglio correre da te. Nella musica invece è in atto un vero e proprio piano sovversivo, ma ne parliamo dopo la viabilità. Mix 24. Storia e musica negli anni 60 e 70. Bentornati a tutti gli amici ascoltatori su Mix 24 Estate. Siamo nel 64 e Franco, mi stavi raccontando di un vero e proprio piano sovversivo nella musica. Sì, un piano sovversivo perché c'era Sanremo da una parte, ma dall'altra parte c'era già il disco per l'estate, il cantagiro, il festival bar, insomma tutte cose che si facevano l'estate. La vedo un po' dura per il festival, eh? Ecco, appunto, ma alla fine erano più importanti quelli delle manifestazioni estive, quelli che vincevano le manifestazioni estive, oppure il vincitore del festival? È una lotta impari, cioè Sanremo dura 3 giorni, queste manifestazioni tutte insieme durano da metà giugno a fine luglio. Non c'era gara, diciamo. Non c'era proprio gara. Ecco perché anche i cantanti, non solo gli operai, d'estate sono contenti di andare in piazza. Ogni volta che torno, non vorrei, non vorrei più partire. La notte fa è solo come me. No, quest'anno al mare non andrò, con te sulla spiaggia, con te sulla spiaggia. Sei diventata nera, nera, nera, sei diventata nera come il capo. Era d'estate e tu eri con me. Era d'estate poco tempo fa, ora per ora noi vivevamo giorni e notti felici senza dubbio. Allora erano Paul Anka, Pnel Sedaka, poi Nico Fidenco, lo Smarcello Sferial e Sergio Endrigo. Cioè, ha sentito che canzoni romantiche. Tu capisci perché negli anni 60 tu andavi in spiaggia e sicuramente rimorchiavi, perché queste canzoni facevano tutto loro, non avevi bisogno di parlare, guardavi la tua ragazza negli occhi e sentivi e questi pezzi, e questo ti aiutava molto. Ma anche con Sergio Endrigo? Sempre triste, scusa. Non è vero, esistono 7 secondi in cui lui sorride alle ore 22:25 del 3 febbraio del 1968. Ci sono. È ufficiale, vai su YouTube. Non so, non so se sorridesse perché davanti a lui sul palco di Sanremo, mentre lui vinceva, c'era Claudio Villa che applaudiva, arrabbiatissimo Villa, però faceva finta di essere contento. Comunque in quel momento lui ha sorriso, è ufficiale. Quindi vai su gli YouTube, scettici possono controllare su YouTube. Ha sorriso, 7 secondi, ma Sergio Endrigo ha sorriso. Quell'anno sorride anche la Ferrero, che il 20 aprile produce il primo barattolo di Nutella che conquista tutti i palati del mondo. E la bambola bionda più famosa al mondo invece arriva da noi ed è la Barbie, ed è subito un boom commerciale. Una Barbie però non ancora in topless, anche se proprio quel luglio, quell'estate, arriva in Europa un nuovo costume da bagno senza la parte superiore. Scandalo totale, assoluto. Esatto, infatti da noi alcune signore lo hanno voluto provare, ma sono state immediatamente allontanate dai bagni pubblici. E hanno fatto benissimo. Che cos'è questo tutto mostrare in spiaggia? Il vizio, ci il sono vizio. I bambini, su, andiamo. Nessun problema invece per la trentenne inglese Mary Quant, che scopre le gambe delle donne e inventa niente di meno che la minigonna. Ecco, lei era inglese come sono inglesi The Animals, e questi animali hanno sfondato alla grande in tutto il mondo con questo brano. There is a house in New Orleans, they call the rising sun. Pezzo che hai messo. Te lo ricordi questo, sì? Sì, anch'io me lo ricordo, è stupendo. Struggente, melodico, no? Chi ha detto, quindi sono gli Animals? Sì, sono gli Animals, però guarda, ti devo dire una cosa molto importante, qui dobbiamo parlare anche un attimo dell'eccellenza italiana. Tu hai sentito questo strumento sotto, no? Questa specie di pianofortino elettrico. Ecco, pensa, questo si chiamava Farfisa, è un'invenzione italiana. La fabbrica che lo ha inventato è stata fondata nel 1870 in Italia e faceva fisarmoniche, poi piano piano negli anni si è specializzato in strumenti elettronici e si è anche fatto poi radio e insomma altri elettrodomestici. Quindi una di quelle aziende del boom economico che iniziano e hanno poi una storia... Un'eccellenza vera italiana. Pensa cosa sarebbe stata la musica, io dico in generale, la musica rock, senza per esempio quello che ha inventato la chitarra Fender. Ecco, nella parte diciamo degli organi o delle tastiere, prima ancora dei Moog, prima ancora dei computer, che aiutano eccetera, la prima cosa importante, una rivoluzione nella musica, l'hanno fatta gli italiani con il Farfisa. E proprio in quegli anni, infatti nel 1964 è l'anno anche del boom dei consumi, gli italiani comprano cibo, vestiti, prodotti per la casa. Non ti dico, Dash e Dixan fanno affari d'oro in Italia, cioè cominciano a spendere, cioè, spendono, se ne vanno anche in vacanza ovviamente, no, di più. Esatto. E sai quanto costava una pensione a Rimini? Non ne ho la più pallida idea, quanto costava? Meno di 1.000 lire al giorno, compreso ombrellone e sdraio. Cioè, mezzo caffè di oggi, questo è. Ah, ho capito. Caro Marchionne, veniamo a voi con questa nostra a dirvi una parola. Una parola. La Fiat nel 1964 vende 4.000 vetture al giorno e nella sola Milano ne circolano 1.000.000. Punto e virgola. Wow. Punto. Abbondiamo. Wow. Toto docet, eh? Sì. Non hai resistito, no, a fare questa cosa, caro Marchionne. Comunque, tu stai parlando di macchine. Per parlare e seguire a parlare di macchine, pensa che quando tu parli in America di macchine, cosa pensi? Pensi a Detroit, no? Ovviamente. Sì. A Detroit nasce la Motown Records in quel periodo e nasce soprattutto quello che sarà riconosciuto universalmente come il Motown Sound. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and questo gran pezzo è? Questo gran pezzo è delle Vandellas con Marta al microfono solista, un pezzo stupendo che è poi stato rifatto anche da Mick Jagger e da David Bowie, quindi immagina. Sempre di colore, giusto? Sempre di colore, sì. E a proposito di afroamericani, nel ring quell'anno Cassius Clay batte Liston, storico, il suo nemico storico, e diventa campione del mondo dei pesi massimi. Sempre negli Stati Uniti, Federico Fellini vince l'Oscar con 8 e mezzo, e per lui è soltanto il terzo Oscar. E non male, non male quel 1964. Esce Per un pugno di dollari di Sergio Leone con Clint Eastwood, il capostipite degli spaghetti western, con la colonna sonora di Ennio Morricone. Premio Nobel per la pace a Martin Luther King e per la letteratura a Jean-Paul Sartre, ma lo scrittore si prende il lusso di rifiutarlo e dice: «Il mio rifiuto non è un atto di improvvisazione. Lo scrittore deve rifiutare di lasciarsi trasformare in un'istituzione, anche se questo avviene nelle forme più onorevoli, come in questo caso». All'MIT di Boston. Ti piace come l'ho detto, Boston? Benissimo, adesso voglio vedere come dici i vincitori. Tre giovani ricercatori, Louis Poussin, wow, Glenda Schroeder e Pat Crisman, detto bene? Benissimo. Grazie. Prego. Inventano niente di meno che la mail. Quindi è tutta colpa loro se oggi... se siamo intasati. Vabbè, ho capito. A Montreal si sposano Liz Taylor e Richard Burton. Per la prima volta, perché tu sono sposati diverse volte. Un rito semplice, comunque, solo una decina di invitati. E la sposa indossa un unico gioiello, una spilla di Bulgari con uno smeraldo centrale e diamanti. A Grosseto, alle 3 di notte, in gran segreto, nella chiesa di San Francesco, si sposano Adriano Celentano e Claudia Mori. Siamo la coppia più bella del mondo. Sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore. E intanto a Vienna ascoltate cosa capita. E consacra in questo momento l'Internazionale di Milano vincitrice della 9ª edizione della Coppa dei Campioni. A Vienna l'Inter batte il Real Madrid 3-1 e vince la sua prima Coppa dei Campioni. Vabbè, un anno strepitoso il 1964. Ti voglio lasciare con un brano meraviglioso. No, non mi lasciare, dai, già chiudiamo quest'anno. No, sì, però, però ti lascio in bellezza, credimi, ti lascio con un brano meraviglioso che è di Bruno Lauzi, il cantautore forse più importante di quel periodo della scuola genovese. Però non te lo voglio far ascoltare da lui, te lo voglio far ascoltare da un nostro, come si dice? Una cover? Una cover, un moderno. Te lo faccio ascoltare da Franco Battiato, si intitola Ritornerai. Ritornerai, lo so, ritornerai. E su Ritornerai di Franco Battiato vi ricordo che noi ritorneremo lunedì con il 1965. Ciao, buon fine settimana. Ciao. Le stesse cose che tu non volevi vedere intorno a te.